cartellone di Elisabetta Fiorito. Sono molto felice di essere qui anche perché ho temuto di non farcela, no? Perché ho visto che i giudici stanno andando in ordine alfabetico. Berlusconi, Bertolaso, prossimo. Ero io. Sono preoccupato di sta cosa. Anche se prima di me ci sarebbero stati Bertinotti e Bersani, ma questi oramai sono latitanti da anni. Non li trovano più neanche gli elettori, oramai hanno mandato gli avvisi di comparizione, sono spariti. Il problema è che stiamo vivendo un'epoca difficile, difficile. Oggi se ti truffa un mago da chi vai? Dal Gabibbo. Cioè, i lavoratori di Termini Imerese hanno perso il lavoro a chi hanno chiamato Fiorello. E per trovare poi Bersani, ma non Samuele, Pierluigi, l'altro, il leader della sinistra, sono dovuti andare a Sanremo. Sì, tra parentesi è andato anche al TG4. Io ho visto i ragazzi del Grande Fratello la sera, date una doppia mandata di chiave, sennò ve lo trovate dentro la mattina. Eh sì, è dappertutto ormai. Se vuoi sapere i nomi dei parlamentari che usano la coca, a questo punto devi andare dalle Iene. Ragazzi, allora a sto punto, se volete la finanziaria la butto giù io, tra una puntata e l'altra, due minchiate, quattro numeri, magari mi viene anche bene. Il problema qual è? Che ci sono state delle inversioni di ruolo. A noi ci ha fregato il 68. A Super Silvio il numero dopo, ma questa è tutta un'altra storia. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Iniziamo con un momento di divertimento e di satira anche pungente, quella di Enrico Bertolino, che è con noi oggi. Buongiorno Enrico. Eccomi qua, buongiorno a voi. Allora, Lampi accecanti di ovvietà, un one man show che sarà in scena da martedì 9 fino al 14 marzo al Teatro Ciak di Milano, giusto? Sì, esattamente, sì, è one man show con un accompagnamento di Teo Ciavarella, un musicista del Conservatorio di Bologna, però a recitare sono io, giustamente. Allora, quante ore sul palcoscenico? Una, due da sola, non è un po' difficile? No, beh, ma è stimolante. Questa volta mi sono dovuto contenere perché la realtà offriva degli spunti tali, avremmo dovuto fare una non-stop di 24 ore. Però facciamo due tempi, cerchiamo anche di rispettare le capacità del pubblico di poter recepire una serie di battute, di gag e soprattutto di riflessioni che vengono fatte sul palco e a uso e consumo della platea. Per cui faremo i due tempi canonici, ma ci saranno tanti, tanti spunti interessanti, soprattutto a Milano, dove c'è una realtà in continua evoluzione. Ma lei è milanese? Io sono milanese, sì, sono milanese. Ovviamente. Di origine sono valdostano, però è Milano la mia sede e qui ovviamente mi trovo un po' a casa mia. Poi peraltro ad ogni presentazione che facciamo a Milano, ci sarà, in ogni città dove andiamo con lo spettacolo, ci sarà un articolo di Curzio Maltese che farà da supporto, un pezzo scritto ad hoc per lo spettacolo che io mi devo memorizzare due giorni prima perché fino all'ultimo non lo completiamo. Milano con l'Expo ci offre tantissimi spunti. Ma i lampi accecanti di ovvietà in questo paese sono molti? Sono tanti, sì, è proprio la frase di George Bernard Shaw, per cui l'ho preso un po' in prestito, perché il lampo accecante di ovvietà è quella cosa talmente ovvia che poi sfugge. Ecco, quello che per esempio sfugge ai cittadini è che si stia parlando di presentazioni listini, piuttosto come se fosse una prenotazione per un viaggio a Cuba, mentre invece il problema sono i contenuti, cioè passa sempre in secondo il contenuto e in primo piano rimangono le cose più evidenti, più palesi. Non interessa chi e quale tipo di massaggio abbia avuto Bertolaso, interessa sapere che cosa ne hanno fatto dei fondi. E questa cosa finisce nelle quinte, sette pagine dei giornali, mentre invece davanti rimane soltanto questo enorme circo, è un po' una sorta di impero di Caligola, nel quale il Caligola in questo caso ride ed è felice. Un attimo Enrico, perché vogliamo sentire un pochino di questi lampi accecanti di ovvietà. Sì. Il principe assurdo Emanuele Filiberto lì, che se fino a 20 anni fa fosse entrato in Italia andava a San Vittore, oggi è andato a Sanremo. L'avete sentita la canzone, no? Sì, anche, ma in ogni caso o San Vittore o Sanremo era meglio non cantare, perché la canzone l'avete sentita, no? Sono qui per dire al mondo e a Dio, Italia amore mio. Ma meno male che Dio mi rese ricordioso, se no gli tirava giù un fulmine e lo inceneriva lì. Ma sono arrivati secondi. E meno male che 50 anni fa nel referendum tra Repubblica e Monarchia non c'era il televoto, se no ce lo troviamo come re intronato, cioè pretendente al trono. Ecco, questa è una critica che tutti gli italiani si sentono di condividere. Noi penso di sì, ma è una critica bonaria, nel senso, io uso l'ironia come grimaldello, mi piacerebbe poterlo fare, e non soltanto riferito alla politica, ma anche al costume, alle persone. Sì, ma Emanuele Filiberto, per esempio, io ho pensato, mamma mia, Vittorio Emanuele II e Cavour si saranno rivoltati nella tomba quando hanno sentito questa canzone. Sì, anche perché poi è una sorta di abdicazione totale, cioè da re sei diventato poi, sei passato al Pulcinella, prima c'erano almeno una divisione di ruoli. Infatti all'inizio di questo spettacolo proprio il primo monologo parla del nuovo Medioevo, si diceva questo è il nuovo Medioevo, lo dicono in tanti catastrofisti, e invece sostengo che il nuovo Medioevo non è così, non è questo, perché la differenza tra noi e il Medioevo è che all'epoca non c'era la TV, internet e i media per informare la gente che erano nel Medioevo. All'epoca aspettavano serenamente il Rinascimento, oggi si aspetta il condono. Sono due belle differenze. Un po' duro, ma in questa satira, per esempio, questa satira come viene presa dai politici? Ma guarda, a me generalmente mi ignorano, e questa è una delle cose che mi fa più piacere. Io non ho alcuna volontà di martirio come quelli che si vogliono incatenare per poi essere anche da parte né da sinistra né da destra. Non, a me piace un po' lavorare sul fatto di dire che la destra sta facendo la destra, cioè fa quello che lo fa, è spesso reazionaria, cerca di portare a casa le sue cose in maniera abbastanza energica. È la sinistra che non fa più la sinistra, per cui in questo spettacolo usciamo un po' da quell'antiberlusconismo fine a se stesso per stare un po' invece a richiamare la sinistra a fare il suo mestiere. Non mi hanno mai richiamato, se no, l'unico fu Bondi a dirmi delle cose per Globe, che è lo Scena del Villaggio, dicendo che era un programma volgare ributtante, lo disse con carta e penna del ministero, e secondo me quello fu un errore, però la sua opinione è rispettabilissima, come quella di qualsiasi cittadino che ha diritto di dire cosa vuole. L'unica cosa, ha a disposizione un telecomando, può cambiare canale senza invece poi fare l'editto ministeriale, però non crea problemi. Addirittura poi il cartellone si può anche non andare a vedere, ma noi consigliamo a tutti di andare a vedere Enrico Bertolino al Ciak. Ma una cosa invece, a proposito, appunto, di satira politica, mi sembra però che ci sia una scelta consapevole, che mi sento di approvare, dell'uso preciso del linguaggio e di non scadere nella volgarità. No, il tentativo è di evitare di andare più sulle idee che non sulle persone. Oddio, è inevitabile qualche riferimento a Brunetta in senso ironico e figurativo, ma quello che più deve interessare è il concetto di idea. E l'uso della parola, ad esempio, su Bertolaso si è detto di tutto, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Io non mi soffermo su quello perché bisognerebbe essere molto più documentati. Una cosa che però ho visto è quando era San Fratello, in questa comunità nel Messinese dove il paese stava scivolando a valle con queste slavine, con questi problemi di valanghe, di smottamenti, lui ha dichiarato lì proprio basta fango su di me, e forse magari poteva usare un'altra parola, ecco, perché se basta fango su di me a San Fratello gli abitanti avrebbero potuto dire e su di noi, scusi, abbi pazienza. Anche questo è vero, ma non solo la politica, Enrico, anche il costume, ricordiamo, sì, l'ampia, sì, sì. Accecanti di ovvietà, la prossima settimana dal 9 al 14 marzo al Teatro Ciak di Milano, e ascoltiamo allora un piccolo pezzettino di che cosa succede nella vita di coppia. Diventa un brusio dopo un po' la parola, solo un brusio, perché diventa un copione. Quando torni a casa la sera c'è lei che ti aspetta, provate a sentire sempre lo stesso tono. Ciao amore, com'è andata oggi? Ma solito, tanto lavoro, traffico in tangenziale, 20 minuti ho girato per mettere il posto, per prendere la macchina e metterla nel posto macchina mia, solito c'è la vicina che l'ha messa al posto nostro. E lei che ti dice, ah, fossero questi i problemi, eh? Vuoi le uova sode con l'insalata? Cioè, no, vabbè, metto il pigiama, arrivo subito, eh? E fai presto che è quasi pronto. Provate a tenere lo stesso tono e la stessa metrica cambiando la frase. Ciao amore, com'è andata? Niente, il solito. Mi sono licenziato, ho fatto una pista di coca, ho tirato su un transi in tangenziale, ho preso a bastonate la vecchia che ha messo la macchina. Ah, fossero questi i problemi. Vuoi le uova sode con l'insalata? Sempre le uova sode con l'insalata, perché tutti a dieta in quest'Italia che ha paura di ingrassare. L'unica variante è il tonno al posto delle uova sode, ma il resto rimane invariato. Che poi per digerirle è un problema. Allora, Enrico Bertolino, per una satira non volgare ma pungente, Lampi accecanti di ovvietà, al Teatro Ciak di Milano dal 9 al 14 marzo, e noi comunque l'aspettiamo anche a Roma, siamo bipartisan a Roma, sia a Milano sia a Roma, tutta Italia. Sono un orfano dell'Ambra Iovinelli, certo. E allora io non appena ci sarà, molto volentieri, il pubblico di Roma è stato un riscontro molto importante, perché quando sono venuto, un comico del nord viene sempre con un po' di ansia a Roma, però sono venuto con piacere ed è stato un ottimo riscontro, mi piacerebbe tornarci, aspetto di trovare un teatro che sia in grado di potermi ospitare. Allora, Enrico Bertolino, Teatro Ciak dal 9 al 14 marzo. Cartellone. E adesso andiamo a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca, dove c'è una prima particolarissima, una prima nazionale assoluta, addirittura patrocinata dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Laura Lattuada presenta L'Inferno non esiste, due storie di Susanna Tamaro, due storie di denuncia di donne che subiscono ancora violenza. Buongiorno Laura. Buongiorno, buongiorno. Allora, è un po' emozionata visto che stasera debutta? Sì, no, emozionata sì, anche perché a parte il debutto, comunque essendo un monologo, è sempre uno stress molto maggiore, perché sei completamente solo, qualsiasi cosa succeda te la devi sbrigare tu, e quindi è molto più impegnativo. E poi sicuramente il fatto di parlare di storie vere, comunque insomma di situazioni nelle quali molte persone nel pubblico si possono riconoscere, eccetera, presumo una responsabilità, proprio diciamo una parola alta, morale, che insomma è maggiore. Ecco, le due storie, prendiamo, sono praticamente come è articolata la serata, due monologhi di due, e di che cosa parlano? Diciamo che sono tutti e due donne che raccontano in prima persona, una in forma proprio parla lei, il secondo invece che è molto più corto, che è di nuovo lunedì, è in forma di diario, che però la donna dice ad alta voce. Sono due storie, la prima di una violenza fisica sia sulla moglie che su un figlio, la seconda invece su un abuso sessuale del marito di questa donna, il fatto che lei si rifiuta di vedere, cioè nella storia lei dice che va tutto bene, ed anche questo è un atteggiamento molto spesso, che si ritrova molto spesso nei confronti di donne che hanno questo tipo di situazione personale, no? Non voler vedere, non accorgersi, cioè accorgersi ma non voler ammettere che c'è un marito che abusa della figlia. Ecco, questo è molto importante perché è un tema che stiamo poi esaminando e abbiamo esaminato molto spesso anche nella trasmissione che conducevo, La Quota Rosa, sulle donne proprio, che le violenze sulle donne vengono fatte all'interno delle mura domestiche, sì, e sì. Quindi è molto molto difficile perché c'è questa connivenza, o magari viene appunto abusata la figlia e la madre fa finta di niente, oppure invece viene malmenata la madre, insomma ci sono parecchie problematiche relative a questo. Laura Lattuada, come si sente di guardare queste donne? Se potesse non essere un'attrice ma essere una persona che va a parlare con queste due donne, che cosa direbbe loro? Ma guardi, credo che lei abbia usato un verbo che è fondamentale, io l'ho già detto in altre interviste, è guardare. E io dico sempre non distogliere lo sguardo, guardare e mantenere viva l'attenzione, perché molte volte queste donne si sentono sole perché per una serie di motivi, per me è importante non giudicare, e per me è importante, visto che io non so fare altro, faccio solo l'attrice, dare voce a queste donne, dare voce non giudicando mai, io anche soprattutto nella seconda, pochi giorni fa ho fatto un dibattito all'Università di Tor Vergata e devo dire che gli studenti che avevano letto i testi prima del dibattito trovavano tutti assolutamente sgradevole uno di questi due personaggi, e io invece a un certo punto mi sono trovata a difenderla perché dicevo ma lei non ce la fa, è incapace di reagire, di salvare la figlia, di reagire al marito, oggettivamente dall'esterno può sembrare così non solo non comprensibile ma anche riprovevole un atteggiamento del genere, però secondo me invece è molto importante non giudicarle mai e comunque mantenere viva l'attenzione. Parlarne, perché se io dico questi giorni che se fra questa sera e domani 300 persone e 300 persone parleranno ad altre persone di queste storie e magari fra queste altre persone c'è qualcuno che le sta vivendo, io penso che avrò raggiunto il mio obiettivo. E soprattutto magari far capire a queste persone, a questa madre che è incastrata in questa situazione, che invece c'è e deve esistere una via d'uscita, ed è quello di andare a denunciare questo marito, di avere il coraggio di spezzare questa catena e di proteggere sia se stessa sia le proprie figlie. Questo è importantissimo, quindi il teatro come denuncia, questa è la cosa che forse no, Laura Lattuada, bisogna cercare, perché attraverso la consapevolezza arriva poi la possibilità di denuncia. ma non è un caso che questo spettacolo è prodotto dal fortemente voluto dal capo dipartimento alle pari opportunità, cioè non è un caso che io, quando ho pensato di fare questa cosa, sono andata al Ministero alle pari opportunità e che da parte loro ci sia stato tutto questo interesse subito, perché poi è una forma di comunicazione che magari vale di più di tanti convegni, tanti dibattiti, cioè il teatro, come dovrebbe essere, è un modo di parlare con una platea, con degli interlocutori in modo più immediato. Per dirla alla Brecht, è un modo per prendere consapevolezza. Laura Lattuada, L'inferno non esiste, due storie di Susanna Tamaro, in prima nazionale assoluta questa sera, sabato 6 marzo e domani, domenica 7 marzo, al Teatro Tor Bella Monaca. Grazie Laura. Grazie, grazie. È tutto sbagliato su di noi, nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi accorgevo. Su di noi nemmeno una nuvola, ricordiamo Pupo. Pupo impera a teatro, abbiamo sentito anche la scorsa settimana che viene molto utilizzato, e viene utilizzato questa sera e domani al Teatro Palladium di Roma in scena verticale Utingiutu, una iace di Calabria. Spero di aver detto correttamente questo nome, questo sostantivo. Dario De Luca, regista e autore del testo, che cos'è Scena Verticale? Ah, Scena Verticale è una compagnia calabrese che opera sul territorio nazionale, è attiva da un po' di anni, dal 92, e adesso siamo a Roma con questa nuova produzione che è appunto Utingiutu, come giustamente hai saputo donarlo agli spettatori. Una iace di Calabria, in realtà siamo partiti dalla iace di Sofocle, ho completamente riscritto la storia, è calati questi eroi greci nella Calabria andranghetista di oggi. E che cosa fa Iace tra l'andrangheta di oggi? Ma la riflessione è partita proprio da, rileggendo la iace, di come fosse vicino un certo pensiero, è proprio il parlare di questi guerrieri, quindi di Agamennone, di Teucro, di Ulisse insieme ad Aiace, come fosse vicino a una certa mentalità, a un certo modus pensandi della nostra mala Calabria. Per cui da questa riflessione è dalla riflessione più alta di come poter portare oggi il tragico in teatro, in scena, è venuto fuori questo testo, per cui loro, Aiace, insieme a tutti gli altri, sono capi clan di una cosca andranghetista, e alla morte di un altro capo, di Achille, devono spartirsi le armi, quindi il territorio, il potere, gli uomini e gli affari, e si predilige Ulisse al posto di Aiace, e lì parte la follia di Aiace, per cui farà una strage, così a seguire. Insomma, chi verrà a vederci capirà e vedrà come va a finire la storia. Quindi, insomma, ripreso da quello che è la tradizione greca, per cui Aiace è colui che doveva essere il guerriero più valoroso, invece viene, sì, viene sorpassato da Ulisse, che è il guerriero più intelligente, la cosa invece prende una piega abbastanza tragica. E Pupo, su di noi abbiamo sentito tipo una radio che lo trasmette. Sì, sì, una vecchia radio che, insomma, accesa manda questa canzone, anche perché lo spettacolo inizia che ci sono, è ambientato in un'agenzia di pompe funebri, e ci sono dei becchini, come poi i becchini shakespeariani dell'Amleto, che stanno aggiustando un corpo morto, lo stanno vestendo per i funerali, si capirà alla fine chi è questo corpo morto, e mentre stanno lì a fare i loro rituali quotidiani, sentono la musica e c'è Pupo che impazza, e da lì parte poi tutta una scena, perché questi becchini, tra l'altro, sono anche coloro che organizzano la festa patronale nel paese, e pensano, ma perché non facciamo venire Pupo? E lì c'è tutta una diatriba, si sviluppa proprio un pezzo di storia, si sviluppa proprio da questa riflessione sul far venire Pupo sì o no alla festa della Madonna. Allora, va bene, abbiamo capito, noi chiaramente ci scusiamo con Pupo che magari non c'entra assolutamente nulla. Scena verticale, Utingiuto, una Iace di Calabria, oggi e domani al Teatro Palladium di Roma, regia e testo di Dario De Luca. Grazie Dario. Grazie a voi, buona giornata. Sono i miei adorati colombi profumati di stelle, gli emigranti che si rifugiano nel mio castello. Hanno saputo che la polizia, per taccagneria e insulsaggine, accusa il loro leader di essere un terrorista. Duchessa Lerri, i miei ossequi. La chiamo. Quello che state sentendo è Viviana Piccolo nel Castello dei Clandestini a Bologna, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo, un monologo inedito di Ferdinando Arabal. Buongiorno Viviana. Buongiorno. Allora, di che cosa parla questa storia, che è un pochino particolare, mi sembra? Sì, praticamente questa storia parla degli emigranti, dei clandestini e di questa duchessa che nel suo castello ospita un gruppo di clandestini e di emigranti, parla dell'emigrazione. Quindi un monologo abbastanza non assolutamente medievale, ma molto molto invece attuale. E che cosa fa questa persona che parla dei clandestini? Li accoglie, dà ospitalità, vede qual è il contrasto che c'è nel nostro paese nei confronti delle persone che vengono? Sì, praticamente lei cerca di ospitare tutti questi migranti all'interno del suo castello, trasformando il castello in un centro di accoglienza. In verità questo castello è murato dall'esterno, dalle autorità, e viene usato come limbo, cioè luogo di passaggio dove gli emigranti vengono portati dalle autorità e poi vengono espulsi e rimandati indietro con i charter nel loro paese, e lei sta cercando di combattere questo, di trattenerli, di tenerli dentro. Per cui c'è tutto questo scontro, questi dialoghi tra lei e tutte queste autorità che la chiamano, la interpellano, le chiedono insomma di trovare un accordo, e alla fine questo accordo insomma sarà molto difficile da raggiungere, ecco, diciamo. Poi comunque lo stile è quello di Fernando Arrabal, per cui particolarmente surreale, un monologo panico, fa parlare questa duchessa, e alla fine si scoprirà che comunque questa duchessa è affetta da una malattia mentale. Che però, insomma, è un buffone. Certo. Diciamo. È il buffone di corte. Allora, ricordiamo, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo, presso il Centro di Promozione Teatrale La Soffitta, Viviana Piccolo presenta in anteprima assoluta Il Castello dei Clandestini, ore 21. E poi lo spettacolo sarà in replica anche sabato 13 marzo, ore 21, presso la Sala Estense a Ferrara. Grazie Viviana. Grazie a voi. Cartellone. E adesso andiamo a Roma per celebrare colui che è uno dei nostri pittori preferiti, colui che è il nostro vanto, sì, Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. Una mostra, quella lì che si è aperta a febbraio a Roma, che sta avendo un successo enorme di pubblico. Ogni volta passando davanti alle scuderie del Quirinale si vede la fila di tutti i turisti che vengono a Roma per vedere questi dipinti del grandissimo grandissimo Caravaggio, del grandissimo artista lombardo che riusciva a far vivere sulla tela qualsiasi cosa. Allora, una mostra che è importantissima da vedere ed è aperta fino al 13 giugno, ma noi abbiamo un piccolo sogno che venga prolungata perché è talmente tanto un successo che veramente vale la pena. Per chiunque venga a Roma in vacanza deve assolutamente andare a vedere alle Scuderie del Quirinale, quindi vede anche la bellissima piazza del Quirinale, questa mostra. Adriana Fracchia, la nostra Adriana Fracchia, ha preparato ben 3 interviste proprio su questo evento, la mostra dell'anno, la mostra di Caravaggio alle Scuderie del Quirinale a Roma. Il 2010 è un anno all'insegna di Caravaggio e anche Roma celebra i 400 anni dalla morte di Michelangelo Merisi. Così, dopo la mostra Caravaggio Bacon alla Galleria Borghese, è la volta dell'esposizione alle Scuderie del Quirinale dedicata interamente ed esclusivamente all'artista lombardo. Intitolata Caravaggio, rimarrà aperta fino al 13 giugno. Il soprintendente al Polo Museale Romano, Claudio Strinati. I quadri sono una ventina e sono stati scelti di tempo con questo criterio per prendere le cose più sicure, e da ogni periodo dell'attività, quindi è rappresentata tutta la carriera di questo pittore, da quando comincia le prime opere fino praticamente quasi all'ultima, e quindi insomma, l'idea è quella di dare un'immagine molto sintetica però precisa di quello che ha fatto, lo stile, i vari argomenti che ha trattato e appunto i vari periodi della vita, perché infatti questo ci ha avuto una carriera brevissima perché è morto a 39 anni, quindi sono in realtà pochi anni di carriera. Tra l'altro ha cominciato stranamente relativamente tardi rispetto agli standard dell'epoca, insomma, cominciavano di solito giovanissimi, invece poi lui in realtà è uno che ha cominciato almeno quello che noi conosciamo, che aveva già più di 20 anni di età, che non era pochissimo per l'epoca. Quindi è una carriera che dura una ventina d'anni, dai suoi 20, 21 anni a 39 anni. Le opere raccolte coprono tutto questo periodo. L'occasione sono questi 400 anni dalla morte. Sì, perché ma è morto, sì. È morto appunto nel 1610, ma sì. Un'occasione ovviamente imperdibile per raccontare la grandezza di un pittore che qualcuno appunto ha definito un pittore contemporaneo. Lei è d'accordo su questa definizione? No. L'anticipatore dell'arte contemporanea. Ma secondo me non è assolutamente vero, non è anticipatore di niente, è uno che vale per quello che ha fatto, poi sa. Non mi sembra che abbia anticipato, non è un gran complimento dire che ha anticipato l'arte contemporanea, perché insomma, cioè, lo consideriamo un grande artista, a parte che l'arte contemporanea non esiste, cioè esistono altri artisti contemporanei, sono diversissimi uno dall'altro, come era ai tempi suoi peraltro, quindi che cosa avrebbe anticipato il Caravaggio? Qualche aspetto dell'arte contemporanea? Ma insomma, non mi sembra, comunque diciamo che più che altro per lo spirito che c'è nelle opere, quello sì, cioè non è che sia anticipatore del contemporaneo, che è un artista un po' universale, no? Allora, in effetti, qualunque epoca lo può vedere con gli occhi del contemporaneo, perché tratta argomenti che sono sempre contemporanei, la vita, la morte, la bellezza, la bruttezza, certo, da questo punto di vista è chiaro che si può dire così per pura immagine, anticipa il contemporaneo, ma non è che anticipa, è che a differenza di altri artisti ha trattato argomenti che sono sempre contemporanei, in qualunque epoca, pure nella preistoria ci saranno stati argomenti inerenti alla vita e alla morte, no? Per dire, sono i problemi che si pongono comunque a prescindere dalle tecnologie, dalla cultura anche singola, quindi in questo senso è vero che è un artista che parla più facilmente, sempre, in qualunque epoca, può essere facilmente interessante. E questa mostra di Caravaggio già registra numeri da record, tutti in fila per vederla. Già si parla di mostra evento. Il direttore dell'azienda Palexpo Scuderie, Mario De Simoni. I primi 9 giorni di mostra noi abbiamo raggiunto i 45.000 visitatori, il che significa una media di 5.000 visitatori al giorno, e francamente che si pone già al record storico delle mostre in Italia. Questo è un risultato certamente gente in qualche modo che va addirittura oltre le nostre attese. Noi sapevamo che Caravaggio sarebbe stata una mostra di grande successo sia per la popolarità e la capacità di immedesimazione del visitatore nelle opere di Caravaggio e sia per la qualità eccelsa delle opere che noi oggi riusciamo a presentare. Sono 24 Caravaggio di indubitabile autografia, probabilmente era dal 1951 a Milano con la mostra di Longhi che ridiede grande popolarità a Caravaggio e non si vedeva un così grande numero di opere autentiche tutte insieme. Ecco, lei ha definito Caravaggio una sorta di rockstar. Più che altro lo definisco rockstar in termini di quello che crea nel visitatore, cioè si crea una passione così forte, anche una immedesimazione così forte con la vita travagliata e anche in parte ancora misteriosa di Caravaggio, che in qualche modo può ricordare il rapporto che intercorre fra il pubblico e le rockstar. Ecco, le aspettative a questo punto per questi numeri, insomma, che superi i record di altre grandi mostre? Sì, io penso e spero che noi riusciremo a mantenere questa media, che significherebbe appunto eguagliare il numero di quella straordinaria mostra su Giotto che si fece a Firenze. Speriamo di farcela. Normalmente il numero dei visitatori delle mostre è in crescita nelle prime settimane, quindi ci aspettiamo, come in effetti è vero, che il secondo weekend è già stato più forte del primo, perché nel secondo weekend noi abbiamo fatto 12.000 visitatori, mentre nel primo weekend ci eravamo fermati a circa 10.000, quindi questo ci fa pensare che ci sia ancora un trend di crescita abbastanza costante nelle prossime settimane. E anche il passaparola. Guardi, il passaparola, noi abbiamo delle analisi, noi facciamo periodicamente delle analisi sui nostri visitatori, ci siamo resi conto che il passaparola vale per il 25-30% del successo di una mostra, è un dato molto molto molto interessante ed è il dato più bello perché è la certificazione più vera della qualità di un evento. Quindi il segreto di una grande mostra qual è? Il segreto di una grande mostra è mantenere l'impegno con il pubblico prima di tutto e presentare una panoramica più ampia possibile e più corretta possibile del grande nome che si va a proporre. Certamente deve essere un grande nome, ma altrettanto certamente bisogna mantenere con il pubblico gli impegni che si assumono già sin dal titolo della mostra. In che senso? Nel senso che se io dico Caravaggio devo avere 24 Caravaggio, per esempio, non posso avere 3 Caravaggio e 50 Caravaggischi, in quel caso lo devo intitolare in un modo diverso la mostra. Purtroppo in Italia ci sono stati casi, non su Caravaggio, ma su altri pittori, su altri artisti, in cui forse la promessa del titolo verso il pubblico non è stata sempre così mantenuta. Quando la promessa viene mantenuta il pubblico capisce e premia gli organizzatori e i curatori. Di recente su Caravaggio è uscita una nuova biografia intitolata White Album, edizioni Cooper. L'autore è Andrea Dusio. Ci sono delle biografie particolarmente ingombranti. Quella di Caravaggio sicuramente è una di queste, uno di quei casi in cui la vita o quello che si è sempre raccontato sulla vita rischia di schiacciare un pochino l'opera, che è una cosa che succede spesso con i pittori, tanto più quando la lettura dell'opera non è semplice. E Caravaggio White Album è un po' il tentativo di mettere un attimo da parte i dati biografici più scontati su Caravaggio, cioè la sua presunta omosessualità, la violenza, i comportamenti isterici, qualcuno parla anche di pazzia, per andare a guardare un pochino di più l'opera e come l'opera è nata dal pensiero del pittore, che è una cosa che è sempre molto difficile da ricostruire per un artista che è lontano da noi come tempo, perché prima di tutto l'operazione è quella di capire qual era il sistema dell'arte di allora e in funzione di quello capire che spazio di libertà Caravaggio si è guadagnato e in questo senso come ha cambiato la maniera di porsi di un pittore rispetto all'opera, rispetto ai propri committenti, rispetto al sistema dell'arte, al sistema di potere e di organizzazione di consenso del suo tempo. Che figura era Caravaggio? Era un pittore che ha iniziato tardi rispetto a quello che era l'abitudine dell'epoca ad avere lavori importanti, molto tardi anzi. Lui per aspettare di fare dei lavori veramente importanti, pubblici, ha dovuto aspettare il 1599 ed era nato nel 1571, per cui ce l'ha fatta proprio in estremis ad avere una carriera importante. Poi in 10 anni ha prodotto una rivoluzione straordinaria. probabilmente non aveva una formazione modellata su quelli che erano i canoni del suo tempo, cioè rispetto ad altri pittori disegnava molto meno, e questo fa sì che lui guardasse molto di più alla realtà piuttosto che all'invenzione creativa che poi stava dietro alla pratica del disegno. E guardando molto la realtà ha prodotto un'arte che per molti versi è simile alla fotografia ed era poco controllabile dai committenti, da chi gli commissionava le opere, perché non produceva dei disegni preparatori e dunque chi gli aveva commissionato un'opera se la trovava direttamente finita senza poter controllare in corso d'opera qual era l'evoluzione dell'opera. Ha scardinato quella che era la pratica ordinaria del tempo, che era una maniera di guidare gli artisti da parte dei committenti a un determinato risultato, con un controllo formale molto rigido, cosa a cui lui, volontariamente o involontariamente, per il suo modo di operare, è fuggito, ecco. Ma perché l'ha intitolato White Album questo libro? L'ho intitolato White Album, un pochino ho giocato sul titolo di un celebre disco dei Beatles e poi mi sembrava che il pregiudizio che di più circolava intorno alla figura di Caravaggio fosse quella dell'artista tenebroso. Noi in Italia non abbiamo avuto grandi figure romantiche e forse le figure romantiche più importanti che ci siamo costruiti sono quelle del nostro Seicento, che un pochino assomiglia a quello che in altre nazioni è stato l'Ottocento, no? E anche a Caravaggio, vista la sua biografia violenta, è stata un po' affibbiata questa figura di artista tenebroso. Ecco, il richiamo al colore bianco è proprio per cercare di cancellare questo pregiudizio e vedere cosa c'è oltre. Un personaggio davvero moderno. Davvero moderno, e quel che più conta è il primo pittore contemporaneo, da tutti i punti di vista. Il primo pittore che ha saputo fare un passo indietro, un passo avanti, come vogliamo, rispetto alla sudditanza, rispetto alla committenza, che ha rivendicato per sé una libertà del proprio operare e che ha rappresentato la realtà com'era, non come volevano che fosse rappresentata. Cartellone. Non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi è correre ancora di più. Sono dei versi di Goliarda Sapienza, un'attrice teatrale, cinematografica e anche scrittrice italiana, che praticamente sarà l'oggetto dello studio di una serata un po' particolare, una serata per la Festa della Donna. Lunedì prossimo, la Giornata Internazionale della Donna, viene celebrata a Roma nella Casa della Memoria e della Storia con due storie di donne, Goliarda Sapienza e Amelia Rosselli, la poetessa figlia di Carlo Rosselli, ricordiamo, uno dei due fratelli Rosselli uccisi dai fascisti in Francia nel 1938. E praticamente a prendere spunto da queste due figure femminili, Annabella Gioia, direttore IRSIFAR, Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza. Buongiorno Annabella. Buongiorno, buongiorno. Allora, 8 marzo voi avete intitolato Una storia lunga un secolo. Innanzitutto vorrei dire che l'8 marzo è parte integrante del calendario civile per noi, è una giornata di riflessione sulla storia, sui diritti delle donne e, come lei ha anticipato, noi dedichiamo questa giornata a due film per ricordare appunto due protagoniste della cultura, della storia recente del nostro paese. E ci saranno le testimonianze e le letture di Piera degli Sposti, che ha conosciuto sia Goliarda Sapienza che Amelia Rosselli, quindi sarà una testimonianza indiretta di queste storie di vita. E, come lei diceva, Goliarda Sapienza è un personaggio molto importante, intenso della storia della nostra letteratura, ha cominciato appunto con il teatro, poi con il cinema, ha avuto una parte anche in Senso di Luchino Visconti, poi ha recitato con Maselli, poi ha lasciato questa, diciamo, sua carriera di artista per dedicarsi alla scrittura. Il suo esordio letterario è nel 69 con il romanzo autobiografico Lettera aperta, che subito le dà riconoscimenti, e poi tante altre cose, la sua vita anche difficile, la sua esperienza a Rebibbia, che sarà poi un lavoro dal titolo L'Università di Re Bibbia e poi il suo capolavoro L'Arte della Gioia. L'Arte della Gioia, sì, infatti mi sottolineava la mia assistente Gloria Guerrera, preparatissima, che ha letto questo bellissimo libro e lo consiglia a tutti. E adesso è uscito di recente, proprio a giorni, da Einaudi, Io e Jean Gabin, che è ancora un altro lavoro molto interessante di Golerda Sapienza. Poi di Amelia Rosselli, che dire, è una poeta grande della nostra letteratura, è l'unica donna presente nell'antologia di Mengaldo e poi è segnata da una vita anche lei difficile, nata in Francia, figlia appunto, come lei diceva, dell'esule antifascista Carlo Rosselli, e lei la vediamo introdotta nella società culturale italiana da Carlo Revi, Rocco Scotellaro, Renato Gottuso, Pasolini, Livia Livi. E la cosa particolare di Amelia è anche la sua grande formazione di studi musicali, che favoriscono una scrittura poetica particolare, regolata proprio dai ritmi, dai tempi della musica. E di lei ci parleranno molti testimoni: Bianca Maria Frabotta, Livia Livi, Elio Pecora, Giovannino Russo, sono tutti protagonisti di questo filmato. Sono due filmati non lunghi, di 30 minuti ciascuno, ma veramente intensi. Noi ricordiamo intanto Amelia Rosselli, che diceva: "Vè il poeta della scoperta, quello del rinnovamento, quello dell'innovamento e della ricerca. Quando non c'è qualcosa di assolutamente nuovo da dire, il poeta della ricerca non scrive." E ricordiamo l'appuntamento insieme per l'8 marzo alla Casa della Memoria e della Storia di Roma, due filmati, 8 marzo Una storia lunga un secolo, dalle 17 alle 20, Vuoti di memoria, donne da non dimenticare, organizzato da Annabella Gioia, direttore dell'Istituto Romano per la Storia dell'Italia dal fascismo alla Resistenza. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Prego, entrate, dentro fa caldo. Assaggiate. Non avete mai bevuto della cioccolata calda fatta con una ricetta di 2000 anni fa? Grazie, però no. Che cos'è? Che cosa vede, signora, in questo? Come? Secondo lei cosa sembra? Dica la prima cosa che le viene in mente. Una donna su un cavallo selvaggio? Risposta idiota. Non esistono risposte idiote. Il triangolo al pepe è quello che le ci vuole. Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. Oh, cioccolà, che cosa si farebbe per quel pezzettino di cioccolato, magari amaro, magari con un po' di peperoncino o magari con un retrogusto, ma allo zenzero. E ricordiamo questo bellissimo film che ci ha fatto sognare, anche perché il protagonista maschile era Johnny Depp, quindi insomma si sognava bene. Ma il cioccolato è anche protagonista dal 12 al 14 marzo di una rassegna proprio di gusti a Cortina. La Perla delle Dolomiti si trasformerà infatti in un vero e proprio tempio del cibo degli dèi, Cioccolando Glamour. Filippo Pinelli, segretario generale di Fine Chocolate Organization, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Tutti i maestri pasticceri verranno a Cortina e prepareranno le loro preziosissime praline? Ma sì, allacciandoci a quella che è stata l'introduzione del film, l'idea è quella di regare al cioccolato al glamour. Infatti, cosa c'è di più intrigante e seducente di una paralina rotonda, lucida, scura, di cui possiamo soltanto immaginare la voluttà del ripieno, quanto possiamo resistere senza mangiarla? E per questo abbiamo legato il glamour del cioccolato a sicuramente una delle capitali del glamour d'Italia, perché non soltanto per la sua bellezza, perché è considerata una delle perle delle Dolomiti, ma anche perché è la capitale della modaiola, del glamour italiano. E quindi l'idea è stata quella di portare l'eccellenza del cioccolato italiano, quindi i più grandi maestri cioccolatieri d'Italia, a Cortina per tre giorni, in cui offriremo la possibilità di avvicinarsi a 360 gradi al mondo del cioccolato, quindi da degustazioni, a partire da degustazioni, a cene realizzate a quattro mani da chef stellati che realizzeranno diverse pietanze proprio con il cacao e il cioccolato, fino a un'esposizione completa di quello che è il mondo del cioccolato, quindi dalla semplice tavoletta alle praline più sofisticate, alle bevande calde al cioccolato e anche a dolciumi vari realizzati con cacao e cioccolato. E poi, siccome siamo in periodo di festa della donna, vedo proprio che c'è anche glamour, donne e cioccolato, cioè una, sì, una rassegna poi dedicata proprio anche alle donne, le storie di donne che rappresentano l'eccezione alla regola, esperienze vincenti di arte cioccolatiera italiana tutta al femminile. Quindi insomma si mischia un pochino la festa della donna, il cioccolato, il piacere del gusto, il peccato della gola, ma un peccato insomma veniale, diciamolo. L'importante e non abusare, perché il cioccolato fa anche bene alla testa, no? Fa anche bene al cervello, è antidepressivo, per cui un pochino di cioccolato fa sempre bene. Allora ricordiamo, dal 12 al 14 marzo, chi è a sciare a Cortina, in questa perla delle Dolomiti bellissima, si troverà anche ad avere una qualcosa in più, a poter appunto assaporare il cioccolato con Cioccolando Glamour. E chi non è a Cortina ma si trova a sciare lì vicino, beh insomma, basta prendere la macchina e arrivare in questa splendida località sciistica. Grazie Filippo. Perfetto, vi aspettiamo numerosi, grazie, arrivederci. Arrivederci. E adesso un annuncio che ci rende particolarmente orgogliosi noi del gruppo Sole 24 Ore, perché venerdì prossimo 12 marzo all'auditorium del gruppo 24 Ore a Milano in via Monterosa 91 si terrà un concerto, il concerto di Pavel Berman, che suonerà uno Stradivari, lo Stradivari Marechal Berthier, interpretando Prokofiev nel concerto che si tiene in occasione della presentazione del CD Complete Works for Violin and Piano. Il CD contiene quindi le due sonate, le cinque melodie per violino e pianoforte di Sergei Prokofiev ed è prodotto dalla Musicom di Milano, che cura da anni le registrazioni dei concerti della Filarmonica della Scala ed è distribuito in tutto il mondo dall'etichetta italiana Dynamic. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Procanale con la collaborazione del gruppo 24 Ore. Allora ricordiamo, venerdì 12 marzo, ore 21, Pavel Berman suonerà lo Stradivari Marechal Berthier in via Monterosa 91 nel nostro auditorium del gruppo Sole 24 Ore a Milano. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Vi ricordo anche che potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti.